buongiorno a tutti. Noi Arte Vigrante è un gruppo di studenti o lavoratori che si riuniscono assieme a Senza Dimora e a migranti e a diciamo, situazioni di disagio della città per fare arte insieme, arte, musica, danza, di qualsiasi natura. Noi mercoledì saremo in Piazza San Francesco nonostante l'ordinanza, perché riteniamo che il nostro modo di fare arte è un modo per allontanare il disagio di cui si parla nell'ordinanza e di cui parla il sindaco Merola, e anzi con la nostra proposta artistica costruiamo una città migliore, una città più accogliente, una città con meno disagio. E quindi vogliamo essere in Piazza San Francesco perché la piazza è anche nostra, noi cittadini residenti a Bologna e non vogliamo vivere la piazza e non vogliamo che questa ordinanza ci costringa ad andare via, ad andare da un'altra parte, a lasciare quella piazza vuota, triste e desolata come tra l'altro la stiamo vedendo in questi ultimi giorni successivi all'ordinanza che è entrata in vigore giovedì scorso. Ecco, per non incorrere nelle sanzioni voi ricorrerete a strumenti alternativi. Esatto, l'ordinanza parla del divieto di utilizzare bottiglie di vetro con alcolici. Per noi non è un problema perché è già un regolamento che abbiamo noi nella nostra serata di Arte Migrante, non c'è alcol. Però di solito ci sono gli strumenti musicali. Questa volta i ragazzi che vogliono esibirsi lo faranno senza utilizzare degli strumenti musicali. Però ci sono tante maniere per fare anche musica senza utilizzare gli strumenti musicali. Sì, quindi indicate grattugie, posate, la voce, le mani, quindi insomma metterete a frutto la creatività. Esatto, saremo creativi. Poi le nostre serate sono serate aperte a tutti, quindi invitiamo anche chiunque voglia partecipare ad essere creativo, proposti per fare una performance artistica di qualsiasi natura, appunto immaginando degli strumenti musicali che non siano reali ma siano improvvisati, inventati, e giocando un po' su questa cosa qui, o magari proponendo delle espressioni artistiche di natura diversa. Ecco, nel comunicato che avete diramato raccontate anche di un episodio del giorno prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza. Siete stati avvicinati da agenti in borghese, giusto? Esattamente, hai detto bene, sottolineo il giorno prima che entrasse in vigore l'ordinanza, quindi inspiegabilmente era già attiva. È arrivato un agente in borghese, ha mostrato il suo tesserino e ci ha detto che lui aveva ordine di sequestrare qualsiasi strumento musicale che fosse suonato nella piazza durante la serata, mentre noi eravamo lì riuniti pronti per iniziare la nostra serata di festa come di consueto, come avviene ogni mercoledì da 5 anni e come è già avvenuto tanto spesso in Piazza San Francesco, perché noi ci spostiamo, non si svolgono nella stessa piazza tutti i mercoledì, ma ci spostiamo, siamo itineranti, e quindi eravamo pronti e questa gente è venuta lì e ci ha di fatto minacciato il sequestro e quindi ci ha impedito di svolgere la serata come l'avevamo programmata, minacciando di sequestrarci gli strumenti. Ecco, un'ultima domanda allargando un po' il discorso proprio su Piazza San Francesco. Il comune insomma ha emesso questa ordinanza giustificandola con una sorta di conflitto che si veniva a creare tra le diverse istanze di chi vive lì intorno, insomma, quindi per la gestione della piazza. La situazione richiedeva un provvedimento? A mio modo di vedere è giusto dare ascolto alle voci di tutti, anche di chi vive nella piazza, di chi dorme nella piazza, chi ha bisogno anche della sua pace. L'ordinanza però entra in vigore alle 17 e questo per me è abbastanza ridicolo. Cioè, alle 17 una chitarra, non capisco chi possa dare fastidio. Potrei capire già di più un'ordinanza che parta dalle 11, da mezzanotte, avrebbe un senso diverso, però dalle 5 del pomeriggio davvero facciamo fatica a capirne le ragioni e da questo punto di vista. Però veramente noi siamo non vogliamo pensare che per tutta la notte ci sia il diritto di fare casino, di disturbare le persone che vivono lì, sarebbe profondamente ingiusto, tant'è che le nostre serate finiscono alle 11:30 solitamente proprio per questa ragione. Certo, io ti ringrazio.